fame, devi premere la portante, premere il tasto menu, non mi ricordo se è il pallino oppure la F, no? Poi premere la manopola canali, inizia a lampeggiare la RF Power, con la manopola canali regoli la potenza e per confermare tieni premuta la manopola canali. Questo in trasmissione va fatto, cioè prima premi, menu, manopola canali, aumenti o diminuisci la potenza e tieni premuto per confermare. E poi puoi anche mollare la portante. Ho capito. Comunque è carino, è l'ideale per chi non ha... perché c'è rumore, viaggia, c'è l'altoparlante di fronte, quasi tutti gli apparati infatti professionali, se non che hanno l'altoparlante di fronte, o se no ne attaccano uno di quelli col cavo sempre, proprio per far sentire chiaramente la voce. Sì, va molto bene, e poi anche ben fatto, diciamo, c'è tutto. Ok, vedo che nonostante l'ora sotto è molto trafficata la frequenza, sotto è anche un po' sopra, ci deve essere anche oggi qualche preparazione. Mi stavo facendo vedere, siccome ti c'è il microfono uguale al mio, del 550 Power Intech. No Anto, no, questo ha il microfono, sì, come quello ma senza tasti, è privo di tasti sopra. Non ha né canali né quel tastino rosso, non... poi si è tutto rotto, la guaina si è disintegrata. Sì, lo conosco, tutti gli Intech che io me li guardavo tutti, me li studiavo, Midland e tutto. Allora Gianfra, mi stavi dicendo, sai cosa? È l'unico apparecchietto, parlo di questi che ho io, che fa anche 12 metri, cioè parte da 24... 715 ai 3005, però io francamente sui 12 metri in fonia non ho ancora sentito niente. Guarda, anche stasera era pieno, il fatto è che non avendo antenna c'è un'attenuazione talmente potente che è ovvio che non senti niente. Già scendendo di lì, insomma, se sei molto lontano dalla 27, quindi l'antenna perde, capito? E comunque in questi giorni anche lì è pieno, sentire rumori, segnali di titti, quindi dipende essenzialmente dal fatto che l'antenna, può darsi anche che l'apparecchio così esteso a quelle frequenze lì perda anche lui di suo, capito? No, già riceve come, perché sento quando trasmettono quelle cose, quei segnali, non è fonia, è roba digitale, dai. La fonia è, mi pare, 24.890, 24.990, invece al di fuori proprio della fetta della fonia ho sentito quei segnali digitali, quei suoni, io li definisco suoni, già capito, quindi la ricezione c'è, ha voglia. Solo che io quando c'è propagazione dovrei mettere apparecchi buoni, cioè quegli apparecchi con la banda laterale, non queste cose AMFM. Vabbè, questo era fermo, lo volevo usare, è tutto lì. Questo è persino omologato, questo Intech che sto usando, è persino omologato. Vabbè, a parte il mic che ho messo perché si è disintegrato lo spiralatto dell'originale. Ah, peraltro è a condensatore, c'è il mic originale, questo apparecchio è normale ma a condensatore, e io vedo un sacco di dinamici in vendita, microfoni sostitutivi, dinamici, ma a condensatore, boh, dovrei vedere, forse Midland fa qualcosa per rimpiazzarlo con un mic normale, capito Gianfra? Ma guarda che la capsula condensatore è buona, e quasi tutte sono buone, può dare colpi molto forti a quello dinamico. Quello dinamico notoriamente è un microfono abbastanza sordo, quello condensatore è anche troppo potente, quindi lo fanno per quello, capito? Innanzitutto per una questione di costo, costano molto meno, E poi la larghezza di banda che riescono a darti è superiore a quella del dinamico, che comunque costerebbe molto molto di più fare un dinamico dalle altre prestazioni. Adesso il condensatore lo stanno usando anche, ho visto, in sale di regia, insomma, per persone abbastanza complicate. Sto uscendo, quindi non lo denigrare. Sì. Invece mi hai ricordato una cosa, tornando al nostro vecchio discorso, c'avevo dei microfoni conservati, ma neanche lo sapevo di averne altri due. Uno Kenwood molto vecchio, di portatile, e uno invece ignoto, diciamo, senza marca, però identico praticamente al Kenwood. E beh, lo sai che quello ignoto, senza usarlo, nella busta era disintegrato, solita malattia del cavo. In tanti pezzi è irrecuperabile praticamente, ma è rimasto il microfono. Questa cosa è veramente allucinante, no? Non riesco a capirla, anche quelli conservati, nuovi, si fraccheggiano. È una cosa allucinante. Ti prendi... Posso? Non so nemmeno se sto uscendo, eccolo qua, sì. Allora, scusate un attimo, questo è il mic originale, Gianfra. Mi sto ascoltando, se tocco, c'ha tutti i fili scoperti. Questo è il mic al condensatore originale, quindi la guaina è disintegrata, però i filettini interni ancora sono integri. Aspetta che abbasso l'ascolto, l'altro baracchino. Dimmi com'è. Come timbrica, come pulizia e come volume anche, dai, è già fra. Come volume per me va bene, è un po' basso, però è un 55 come nel complesso, capito? Non è forte, però potresti stare due giorni modulando e le persone ti ascoltano senza uscirne con mal di testa, ecco. È bassa, però chiara, ecco, bassa ma chiara, tutto lì, perlomeno da me fai così, stessa cosa anche per Antonio, vediamo un po'. Antonio? Sì, dimmi. Sì, parla un attimino che devo fare un raffronto. 1, 2, 3, prova radio. Senti? La modulazione com'è questa? Quando veramente ci dio, lo si sta rincoglionendo così. C'ho l'impressione che arrivi più forte Antonio di te, Marco, ma è possibile una cosa del genere? Aspetta, che prendo gli occhiali. Non lo so questo. Sta pompando, almeno credo, e poi aspetta, glielo chiediamo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ecco, devo parlare vicino al mic, devo parlare di lato vicino al mic, perché se mi allontano, guarda, bastano 2 centimetri, guarda quando cambia, così è praticamente 2 centimetri dal mic, così è attaccato al mic, guarda la differenza. Ehi, Anto, sei attaccato? Che te posso dire? Vecchia volpe. Ma perché quanto vi sto arrivando io a Gianfranco? Adesso mi metto in difficoltà perché qua c'è solo 9. Aspetta, prendo pure la lente, il microscopio. No, tutto l'altro che c'è oltre sono puntini. Vai oltre il 9 e arrivi al primo puntino, diciamo così, mentre Marco, se parla normalmente, al primo puntino non ci arriva. Se sta vicino al microfono è tutto un altro discorso, allora siete pari, se non addirittura superiori. Quindi la sua è una questione di piccola innovazione, proprio quella di Marco. Tutto lì. Vediamo un po'. Qua è rimasto, io sono a 1,5 watt, boh, 1,5 watt come fitta. Beh, da, facciamo i bravi, da. Ho un po' meno. Lo basso. Beh, prenderò dopo, cosa si vuoi passare? Prenderò dopo, sì. Vuoi vedere se da lì si è passato la. No, adesso non ho capito perché eravate quasi pari. Adesso sono normale. Io parlo, Anto, parla liscio, parla anche tu. qua, allo basso, allo basso, allo bibbo, allo basso. Allora lo basso. Non fa. C'ho sempre basso. Basso che mi ruba un watt. Quindi male, bene che vada, che questo c'ha 3,5 watt, fai 4, dovrei essere 3 watt scarsi comunque sempre. Allora, dunque, quando lui attacca ci siete tutti e due praticamente. E in questo coso che è contemporaneo, praticamente si genera una specie di forte rumore intermittente. Non si capisce né uno né l'altro, quindi proprio siete come un segnale praticamente identico. Yeah, guarda a vedere adesso, un pezzo abbassato. E così ti passa Marco, così sicuramente Marco ti passa perché è più forte. Ma io ogni tanto mi confermo, mi confondo. Antonio, tu eri vicino alla stazione o eri fuori Sassari? Sì, ero prima. No, non è azzeccato una, quindi. Attualmente sei alla Tedolce? No, io adesso sono vicino alla stazione, prima abitavo alla Tedolce. Ascolta, un dubbio, siccome io c'avevo vicino un'antenna, una Gran Plain, se non ricordo male, esattamente dove c'era la sede della Tedolce, avrei conosciuto Carlo Spimero. Di lì vicino, praticamente prima di fare il curvone, quell'antenna Gran Plain che c'era, abbastanza vecchiotta oramai, non era la tua? No, c'avevo la Storm prima, abitavo lì, lì dove vicino al Certe abitavo prima. Ho capito, che quindi andando un pochettino più avanti c'erano altre due antenne alte, una di Mario che non c'è più, l'altra di, poi non mi viene il nome, vabbè, ci siamo capiti, che trasmette sempre in PMR adesso. Gio Maria, una di Mario, la tolta già. Esatto, sì, Gio Maria, mannaggia. Io sono da un po' che non abito più lì, quindi è da molto che non ci passo. Non so, forse sarà rimasta solo con la Gio Maria. Mentre uscendo da quella via, tirando dritto, uscendo, c'era quella sempre di un caro amico, non c'è più, che era di Mario, di Mao. Di lì non so se sia rimasto tutto. Tutto, anche i figli, quella di Mario era vicina a quella di Gio Maria, era attaccata, era no, ho tutto. No, aspetta, scusa Marco, io dico all'uscita della strada, no, forse era Gavino, io mi sto confondendo, comunque all'uscita proprio all'incrocio c'è una palazzina lì e c'era oltre antenne che erano di un collega radioamatore che è già scomparso da tanto, che però prima era CB. Ho capito che stai dicendo. Che da sulla via principale poi dalla chiesa. Sì, una migliore mi pare, non è tirato tutto, no. Era sopra vicino alla Madonnina lì, stai dicendo tu. Sì, bravo, esatto, proprio lì. Sei di gente che non c'è più, ce ne c'è. Oi, tutto lì. Niente. Di Marco invece so dov'è e di lì cosa c'era, vediamo se ci riesce ad andare a memoria. Anche lui ne aveva parecchi vicini in quella zona, ai bei tempi ovviamente, adesso oramai c'è poca roba. Allora, io di veramente vicino avevo Sandro Satellite in via Principessa Yolanda, no, via, dunque via Le Caprere, sì, via Principessa Yolanda a scendere, no, però vicino a via Le Trento. Poi c'era Andalù, Andalù, mi pare in via Prunicedda, tipo dietro il numero 5 o dintorni, però proprio vicini, da qui a 100 metri o 200, non me ne ricordo altri, anche perché io non frequentavo sui canali, cioè dove c'erano altre ruote, avevamo una ruota di coetanei, stavamo per i cavoli nostri, o Gianfra, chi altri c'era di CP? Proprio qui, vicino. Ma guarda, vicino a me c'era una Grand Plain che però non trasmetteva, proprio di fronte. Quando ero piccolo io, e ti sto parlando che avevo 16 anni, quindi sto parlando di tanti, tanti anni fa. Poi più su, in Viale Trieste, in un terrazzino, c'era un'antenna tipo Mantova 1, però non era Mantova 1, era dell'altra marca, erano simili, non so se si chiamasse Ringo con l'antenna, ma la Ringo mi sa che era senza radiale. Questa ce li aveva, non mi viene il modello ora, e lui era praticamente molto più grande di me comunque, ed era lì proprio in casa di Trieste, sopra i lampadari, per essere esatto, il negozio che c'era una volta ai lampadari, non so se ce l'hai presente. E poi ovviamente anche lì a Cappuccini, in quella zona c'erano tanti altri. Sì, mi ricordo una volta era costellato di antenne, dalle, che ne so, tutto, Grand Plain soprattutto, vedevo molte Grand Plain, classiche tipo 3 radiali o 4, sì, tipo Sigma, come quella che ho avuto io, in Viale Mameli, avevo la Sigma GPVR, anno di grazia 1985, diciamo fine 84, inizio 85. E allora ero già vecchio. Ero già vecchio. No, io ho iniziato la radio, non lo so neanche, guarda, per essere onesto, perché la passione era da molto molto giovane. Tu invece, Anto, da quando sei in radio, dovresti anche tu avere una bella età. No, io molti anni, prima parlavo da ragazzino, no, io ho 36 anni, cioè. Prima parlavo da ragazzino, e poi ho continuato, parlava babbo, parlava, e poi ho continuato. Mi è sempre avuto la passione per la radio. Io non so dove abitavo prima. Adesso, te lo ricordi, non so se ti ricordi Fogliadoro, che è la buonanima. Abitavo in quel palazzo lì, che c'era la Mantova Turbo sopra. No, non me lo ricordo. Cappa, te lo ricordi nella piazza lì? Che prima c'era la Mantova Turbo, c'era sul tetto. No. Ripeto, non fare memoria adesso, no, ce n'era un'altra invece, aspetta, in via San Francesco, io abitavo di lì tra l'altro, che era all'inizio, e ciò conto Kai, mi ricordo, squadrava tutti i 23 canali, che era sopra il bar che c'è in via San Francesco, non quello di Pisi, quello più giù, proprio che dove ci sono i semafori. Ovviamente si buoni attaccare, si buoni a sblatterava. E con l'amplificatore che c'aveva, c'aveva un focai con l'amplificatore. Ah, e poi c'avevo Carmine di fronte, proprio Carmine, c'era il rifornitore di rifornitore via Principata Maria. Ah, c'era pure lì, c'era. E forse ho capito che stai dicendo. Si modulava anche la moglie e ci conoscevamo da anni, abitavamo tra l'altro di fronte proprio, ci sparava al giardino e vabbè, allora guarda c'era di tutto. Marco sicuramente, quanto mi hai detto che anni che è? 30? Da 6 anni c'ho io. Non posso dire che io sono il doppio, se no sarebbero 70 e passa. Però diciamo sono 20, saranno 20, 25, 25 in più, dai. Marco, invece tu dovresti essere sui 40. sì, magari 49. Caspita, tanto 36, io ero convinto ne avessi 40 suonati. Sei abbastanza giovane, caspita. Sono più giovane di tutti qua, cioè, no vabbè, c'è anche Riccardino, cioè vabbè, però uno tra i più giovani sono io, e 36 li devo compiere l'altra settimana, mia, novembre, cioè no, ho 35 anni io. Beh, allora, visto che ho messo occhio, toccati le balle, Anto. E ha messo Guducende. A me tocca dicembre invece. Un anno in più, scatta il contattore, poi io. Oh, Gianfra, ti volevo dire. Cosa ti volevo dire? Aspetta, della banda, sì. No, che notavo su internet che loro, ho visto un documentario sulla 27, che probabilmente è roba che andava in TV a quei tempi, perché era proprio di quei tempi, inizi anni 80. Ho visto pubblicità di baracchini, piccoli spot di, e poi dice che avevano infuriato i negozi proprio che vendevano solo baracchini, antenne per baracchini, una cosa incredibile, cosa che da noi non hai mai visto. Quando mai hai visto una pubblicità in TV, uno spot che parlava di radio, di radio CB? Mai. Sì, allora io ero un consumatore di rivista, c'era Cipo Elettronica, poi dove c'era Elettro Kit, insomma già ne ho comprato poco all'epoca di roba per studiare, e niente, e poi smontavo le apparecchie. Da un patch 6 canali che non mi piaceva per come era fatto, l'ho modificato tutto quanto, ci ho messo i quarti, l'ho fatto credo 23 più 23 con un sistema di inversione, ho comprato uno scatone d'alluminio e ho fatto un apparato micidiale, è una cosa pazzesca. Ma tu stai dicendo pubblicità sui giornali comunque? Però in TV spot sui baracchini non ne ho mai visto, invece in Inghilterra pare, no, ecco dove volevo arrivare, che praticamente domani 2 novembre festeggiano i 39 anni della banda CB in Inghilterra, e quindi useranno il canale 39 della loro banda, mi pare sia 27981.25 in FM, oppure il canale 39 in USB. Quindi al limite se c'è propagazione vi si può dare un saluto. Un saluto dall'Italia. Loro erano messi peggio di noi, cioè hanno iniziato nell'81, gli hanno dato una canalizzazione non internazionale, limitati alla sola FM peraltro. Vabbè, noi all'inizio in AM, però grazie a Dio poi ci hanno dato FM SB, e cioè loro sono stati molto molto, come dire, penalizzati. Infatti uno ha fatto un commento, ci hanno dato i canali internazionali più la M e l'SSB quando già la 27 è bella che è morta, perché gli hanno data, cos'era, il 2015, può essere. Oh, io vi saluto perché sono stanchissimo, va. Sono via stanco. Dai, buonanotte a tutti, ci sentiamo alle prossimine. Antonio Bombo lo chiude, buonanotte a tutti. Mi ha fatto piacere chiacchierare. Ci sono già un bel po'. Buonanotte a tutti, ciao ciao. Ciao Antu, buona serata. Guarda, secondo come va a finire la prossima settimana che inizia, probabilmente non so neanche se potremmo uscire, per come la situazione, quindi per riposarti il più possibile. Ciao, alle prossime, riprendi Marco. Tanto io aggiungo i travaglieri matessi, volere o non volere, devo lavorare lo stesso. Riprendi Marco. E io, ciao Antonio, dai, ci sentiamo, buona serata, buon tutto e buon lavoro per domani. Va bene. E quindi vabbè, un inglese ha fatto il commento, dice ci hanno dato tutto adesso che la 27 è la frutta, che è anche vero. Ogni tanto compaiono articoli anche qua e là o su YouTube, un video, dice il futuro incerto delle bande amatoriali, si hanno poche leve rispetto a una volta, non gliene frega più niente ai giovani, capito? Non, ben pochi sono più quelli che si interessano al mondo della radio, ricette trasmittenti, bande amatoriali. Adesso c'hanno questi smartphone, c'hanno internet, quindi il mondo inizia e finisce su internet per alcuni. Ma mai dire mai, io da quello che vedo sul coso proprio qua, sull'apparato, sui segnali che arrivano, perché anche quando stacchi tu, questo monitorizza tutta la banda, quindi chiunque parli su un canale lo intercetta istantaneamente. È vero che comunque ci sono giorni anche con poca preparazione in cui ad esempio senti tedeschi su tutti i canali, senti anche francesi, spagnoli, e gli inglesi invece non ricordo se sul 15 o sul 16 sentivo in questi giorni un annuncio di una signorina, probabilmente che durava parecchio, tipo spot, no? Probabilmente è quello a cui ti riferisci tu. Quindi vedi, nel male nel sempre noi ci lamentiamo sempre, però alla fine dei conti poi siamo sempre i più privilegiati in tante cose. Sì, poi ogni paese si fa, vabbè, le regolamentazioni secondo un proprio criterio. In Polonia hanno lo 0 finale anziché il 5 finale come kilohertz. Poi vabbè, anche loro ci avranno roba multistandard, presumo, quindi se volendo possono mettere i canali ufficiali nostri, la banda inglese, no? Se spegni, premi un tasto, accendi, selezioni la banda che vuoi, poi che sia legale, quello è un altro discorso. Sì, tieni presente che molti comunque adesso, così come abbiamo fatto noi, si dovranno conformare alle direttive europee, che valgono per tutti gli stati, è per quello che è stato regolarizzato il PNR, quindi pochi lo sanno fortunatamente, oserei aggiungere, però in realtà non ci abbiamo più 8 canali, ma ne abbiamo 8 più 16, il che ne fa un numero ben differente. Solo che questi 16 sono tutti digitali. Sono digitali e io di più, che hanno una frequenza che a impostare è veramente un casino. Io l'ho potuta impostare già su molti apparecchi perché sono professionali e hanno il decimale. Guarda, te lo faccio in termini di 27 MHz, cioè 27, ad esempio 27.075.00, va bene, di lì è .00.25 e trick e track. La maggior parte degli apparati, diciamo, di consumo, quelli che conosciamo, che utilizzano per il PMR eccetera, dubito molto molto che questa impostazione sia accettabile. Ho avuto anche problemi con uno scanner che è modernissimo, lo stesso digitale tra l'altro, a fargliela digerire, perché adoperano un'estensione di frequenza tutta particolare. Quella PMR normale è 6.5, di lì non so che step le abbiamo dato. Allora, sì, per esempio il digital PMR, il primo canale digitale è 446.103125, l'ultimo canale è 446.196875, cioè il decimale dei decimali, all'anima. Poi voglio vedere quanto sono allineati in frequenza con le baracche, ma sì. Digitale dice 6.25, può darsi che siano, non ho mai guardato se sono frequenze intermedie, come dire, forse col passo 6.25 fai tutto, a meno che non sia un passo proprio a tipo a 2,5 kHz, boh, non saprei dove, ma poi non me ne frega ormai, tutto accantonato lì. E poi poco successo hanno avuto queste cose, non... Tutti vogliono avere il massimo della resa e poca spesa. infatti vanno dai cinesi a comprare l'888, lo caricano, lo accendono e poi trasmettono però in zone di pericolo, molto pericolo. C'è troppa gente che utilizza gli apparati senza conoscerli e senza alcuna nozione delle frequenze, purtroppo. E quelli lì li ho guardati perché ero curioso di vedere un po' questo prodotto, le caratteristiche. Ho visto la programmazione iniziale, mi sono messo male in testa. Sono tutti i canali della 462 dovrebbe essere, 462 e 465. Una cosa fuori di testa veramente, cade proprio anche su dei servizi di telemetria primari, quindi ti puoi immaginare. Diciamo che questi nuovi canali, questi 16 canali, che sono tutti digitali, hanno delle caratteristiche abbastanza interessanti, perché puoi mandare sms, puoi mandare tante cose, dai. Poi la voce, se utilizzi, questo sia ben chiaro, un apparecchio serio con ambe più originale, ambe due più originale, ha una chiarezza che è senza pari, non ha niente a che vedere con queste modulazioni che sentiamo di solito. Di lì tutti gli apparecchi, ma anche quelli analogici a banda tradizionali, devono trasmettere sui canali in banda stretta, perché se vedrai i classici 25 kHz di spazio, loro vanno a occupare due canali, quegli 8 in realtà poi diventano 4, è per quello che poi si generano tanti casini, tante cose. Quindi siccome chi compra quegli apparecchi non lo sa, lascia la banda larga e tira a campa, mentre invece andrebbero tutti in banda stretta. E infatti mi ricordo ai primi tempi che si sperimentava per esempio con Pomponio, io cercavo di raccomandare, cioè tra noi due ho detto usiamo l'FM stretta, perché sai, tra qualche watt in più, qualche antenna esterna di troppo, almeno usiamo l'FM stretta, così non si sveglia il cane, non svegliare il cane che dorme. Sì, stavo guardando le frequenze di fabbrica che mettono sull'888, vedo 4, sembra un 462-125, e che è troppo poco definito, con un subtono, ma un po' di tutto c'è, finisce anche ai 469-950, sembra che abbiano messo frequenze quasi a caso e subtoni analogici o digitali anche a caso. Così come delle, non sono nemmeno, non è canalizzazione ufficiale, mi pare FRS, GMRS, come si chiama. Sembrano frequenze campione a caso, no? E mi pare siano sempre quelle. Addirittura sul programma BF480, il programma per programmare l'888, mi pare che c'è il file di configurazione di fabbrica, proprio con quelle frequenze lì. E con quei subtoni poi buttati così a caso, più o meno. Sì, l'ho visto anch'io, tutta la roba. L'ho visto anch'io, è un vero macello, il fatto di non avere una tastiera ti impedisce anche una programmazione manuale, perché è un vero macello praticamente, perché quello che conta poi nel cavo è la parte dove c'è l'USB praticamente, di lì c'è un microprocessore che lo commuta come porta seriale, capito? E di lì casca l'asino, perché se non c'è il drive adatto poi è un bagno di sangue. E così. Io non so se tu fai un ascolto generalizzato, io ad esempio in PMR controllo sempre tutti i canali e ti posso dire che nella settimana scorsa ho notato un incremento di attività da parte degli ospedali micidiali. Sono in PRM anche gli infettivi, tutte quelle cliniche lì li senti, io non so se hai avuto occasione di sentirli, anche se vi potrebbe fare un'osservazione dal punto di vista della privacy, perché poi dicono nomi, cognomi, inietta a questo, quello, inietta all'altro, quindi se tu non vuoi sapere una cosa la dicono a mezzo mondo. Me, per esempio, me. Anche adesso 031 436 031, sì, praticamente ho sentito ricomparire intorno al canale 1 la scuola guida, questo credo che sia il 2 o il 3, non ho capito cosa sia, poi ho sentito sul canale 8 lo stesso qualcosa, ho sentito anche fare nomi e cognomi, il signor tale e tale vuole questa cosa, insomma, vabbè. E beh, lì è in chiaro, poi non so se siano tutti PMR veri oppure sempre bao bao, perché adesso c'erano tutto, anche associazioni di protezione tipo civile, alla cintura li hanno visto di tutto, V5R, V3R, eccetera. Aspetta, cosa volevo dire? No, che ho spiegato a Antonio, lui vedendolo in vendita da Muraglia era convinto che l'888 fosse un PMR omologato, ha detto no Antonio, non è omologato, non è né un PMR né omologato, quella è un'altra cosa, un apparecchio amatoriale, quindi ha detto insomma discrezione, se proprio lo devi prendere. Sì, purtroppo sono sono delle pratiche che si chiamano subito, prima perché fanno una programmazione sbagliata, quindi a banda larga, quindi uno che ascolta con un apparato che ha un semplice analizzatore di spettro vede subito che c'è qualcosa che non va. E poi il fatto che si possa togliere l'antenna automaticamente ti fa, come si dice, perdere la modulazione, diciamo così. Quindi se ti trova uno di quelli, fanno la prova dell'antenna, boh, l'antenna ne esce, basta, tutti, e ti incappettano, capito? Anche se non c'è più il penale, se non ricordo male, però le contravvenzioni, cavolo, sono molto molto molto alte. Quindi bisogna fare attenzione. Poi la cosa più grave è che non si è capito lo spirito del PMR. Il PMR non deve andare lontano, gli hanno dato 0,5 watt, che non sono pochi in HF tra parentesi, proprio per quel motivo, perché devono poter essere usati da tantissima gente sullo stesso canale. Per comunicazioni, che ne so, da piano a piano, da ristorante a sala, non a livello di 1 chilometro, 2 chilometri, 3 chilometri. Mi ricordo con mia grande meraviglia, avevo provato da casa 2 PMR e capace arrivava fino in ottica a coso via sulla strada per lo scorrimento veloce di Alghero. Io sono rimasto perplesso, perché finché si vede in linea ottica qualcosa comunque arriva, però sai, è difficile da spiegare a gente che non ha nessun concetto delle VHF o delle VHF, loro prendono, attaccano e poi vanno senza sapere come fare o come non fare, tutto lì. Ui. Vabbè, è il fascino dell'oggetto in sé, è una frequenza così particolare, molto, e comunque sì, è una rottura di palle, io qua non, poi non smetterò mai di dirlo, questi portatili hanno un ricevitore che porta dentro di tutto, basta un'antenna performante, viene assordato, spariscono tutti i segnali medio-bassi. E quindi qua c'è il ripetitore a 30 metri, come dire, il ponte cellulare della Vodafone, 30 metri proprio. E quindi qua dice Vittore, tutti quelli ricevibili con questa antenna nel balcone li riceve, quelli che arrivano, ma se metti altro, buio totale, arrivano solo i forti, stazioni veramente forti. Sì, infatti non ha, vabbè, per l'uso mio non ha senso. Comunque anche PMR, se devi parlare un po' di cose discrete a brevissima distanza, un po' entro un certo raggio ti sentono. Infatti se lo devo usare in famiglia per proprio brevissime distanze usavo la banda LPD, ma LPD veri è 10 milliwatt, che dovrebbero essere pure RP o com'era quella sigla lì. Ce li ho ancora, sono della GBC WT405 e fanno il PMR proprio con 500 milliwatt pure fasulli, e poi l'LPD con 10 milliwatt, ma lì è drammatica la cosa, cioè esco di casa, giro, svolto l'angolo e sparisce il segnale, e d'altronde in UHF è così, è fatta apposta, però almeno il segnale veggia poco, se devi parlare di sosterie, come facevo secoli fa con una ragazza che abitava di fronte, all'epoca era la mia ragazza, usavamo quei Maxon a 49 MHz che siamo stati non 10 ma 5 milliwatt, cioè da un lato all'altro della strada, ognuno in camera sua, prendeva a malapena. Però lì proprio la portata era talmente piccola che parlavamo di cose anche piccanti. Poi chi era talmente vicino ad ascoltare, che ascoltasse pure, pazienza. Guarda, adesso il problema l'avresti risolto. Ti inviterei a farti una lettura su PMR 446, facendo questa ricerca su Wikipedia. C'è un'ottima spiegazione super aggiornata, tra l'altro c'è anche la legge che è ultima, quindi 2020, che non si deve più pagare niente, in cui c'è un interrogativo, credo, del Ministero alla, non so, alla Commissione Europea, eccetera, sul fatto se il criptaggio digitale era autorizzato o meno, perché non ne fa la normativa europea, non si pronuncia, e quindi le hanno risposto praticamente la criptatura sui 16 canali dei PMR non è vietata, però è meglio non metterla, cioè loro ti danno un consiglio di non metterla, però di vietato non c'è niente, quindi se c'è esigenze particolari la puoi mettere, capito? Quindi figurati come è stata impostata in maniera più che liberale questa cosa, ed è lì anche su Wikipedia è segnalato il fatto, sempre a patto che l'antenna non sia rimovibile, tutte quelle cose lì. Leggetelo perché è molto molto interessante. Ma sì, ricordo però, prima di questa interrogazione, mi ricordo che comunque anni fa sapevo che erano vietate le comunicazioni non diciamo intercettabili, no, dagli organi di controllo. Adesso se ne sono usciti con questa storia che dice è sconsigliabile ma non vietata. Vabbè, le leggi cambiano, però d'altronde uno perché dovrebbe cifrare una comunicazione via radio? Non dico che sia in cattiva fede, ma uno potrebbe avere anche cavoli, come dice voi, usarselo con la propria ragazza a parlare schifezze, di schifezze proprie, magari non vuole essere sentito, ma... Già fra un istante solo, io vado in bagno perché sto veramente esplodendo, c'ho la vescica che è una zampogna, poi rientro, poi dopo che rientro 5 minuti chiudiamo, non mi ero reso conto nemmeno dell'orario, non che sia un problema, perché tanto per come dicevo la giornata scombinata non è assolutamente un problema, dai. Vado in bagno, arrivo subito. Ida, ma anche per me. Già fatto. Oh, rinato. Anch'io. Ah, ci voleva proprio. Io ho anche bevuto già, è certo. Ti sto dicendo che comunque non è esattamente così, perché ad esempio proprio questo caso degli ospedali, dato che l'utilizzo è previsto per tutti, quindi anche protezione civile eventualmente, tutti quei corsi di vari, è utile, perché almeno metti, già se in digitale ed è un pochino più privato, tra virgolette, perché devi avere il codice colore, eccetera, eccetera. Poi se lo cripti sarebbe opportuno, anzi quasi obbligatorio in quel caso, per mantenere la privacy delle persone che stai curando almeno. Quindi è più che giustificato. Sì, oddio, per quegli usi diciamo professionali, sì. Anche i taxi, per esempio, 43 megahertz. Insomma, il signor Tallitali vi aspetta in via, no, un po', vabbè, cognome, posizione, insomma. In effetti, però poi la cosa europea non si è espressa, esatto, ho capito così, non si è espressa in merito, così. Quindi è ancora un po', non c'è risposta al quesito, dai. No, se tu ti leggi quell'articolo, la risposta c'è, hanno detto... Non è vietata, nel senso che nessuno sulle normative europee non c'è un divieto, però è meglio usarla solo in casi di stretta necessità. Non dice che devono essere i medici a usarla o che devono essere la polizia a usarla. È lasciata la buona volontà di tutti, ecco, tutto che sono. C'è l'esigenza, lo usa, eccetera. Tanto sono venuti meno, no? Anche tutti quei fattori che si dicevano, malavita, eccetera, che sono, come dire, oramai tecnologicamente abbastanza ridicoli. Noi sappiamo benissimo che il delinquente non si mette certo scrupolo di portarsi dietro una pistola o di portarsi dietro anche una bomba o quello che vuole. Il fatto di avere una radio non cambia la vita a nessuno, perché a posto di parlare diciamo di cose veritiere può anche dire, che ne so, porta la caramella al bambino, magari per caramella intende chissà che cosa. Quindi si è capito, anche con un po' di logica, che certe cose quelle lì le fanno a prescindere, capito? Non hanno paura di nessuno. Sì, infatti, uno anziché, se non si vuole far capire, basta usare un po' un linguaggio così in codice, no? Va. Come si vedeva in certi film, no? Anche quelli di Alvaro Vitali, ti ricordi, le soldatesse alle grandi manovre, anziché dire i carri armati dicevano, non so, i coccodrilli, usano tutte frasi del genere stampate. E lì avevano fatto parlare anche, mi pare, l'amico Barese di uno di quelli, no, Barese stretto, non si capiva una mazza. Poi peraltro aveva pure sbagliato, perché non era del suo paese e non si capivano neanche tra di loro, ti ricordi? Oi. Sì, poi questi PMR al limite, queste cose, c'hanno tutte cifrature, c'è inversione di banda, anche certi PMR che, tipo qual era, l'Intec MT5050, aveva la possibilità, però sempre, vedi, modificando l'apparecchio, ti abilitava i canali aggiuntivi, i watt aggiuntivi e la scalabilizzazione e inversione di banda, però lì è una cosa che comunque lo mandava fuori legge l'apparecchio. C'è un'inversione di banda, gli organi di controllo non avranno problema alcuno a ascoltarla. Certo, un pilla qualsiasi con uno scanner non lo so fare, no? Parlo dell'uomo della strada, sente questo segnalino un po' distorto e finisce lì. Come dicevamo l'altro giorno, in quella puntata invece di quella serie lì di La Casa di Carta, no? Mi pare stagione, inizio stagione 3. Praticamente per comunicare usavano un barroccio, una radio inglese degli anni 40, però questo li aveva messo, l'aveva interfacciato per una cifratura in inglese in uscita, no? Quindi roba informatica, no? Vabbè, ha parlato di livelli, poi 2300 livelli, in entrata e in uscita, vabbè. Comunque è interessante vedere tanto materiale in quella serie. Interessante. Bellina come serie, dopo tutto. Molto molto bella, devo dire, io l'ho vista tutta fino alla fine, adesso ci. Purtroppo la Spagna è in quelle condizioni, quindi la nuova serie chissà quando la daranno. Riguardo alla criptatura, guarda, la vera criptatura ce l'hanno gli apparati professionali, perché l'altra è quella un po' alla volemosi bene. Anche alcuni a basso prezzo hanno criptature abbastanza elevate, tipo gli Anitone ad esempio hanno hanno in dotazione, diciamo così, la S256, uno direbbe sfiga, perché ora è praticamente indecifrabile, così dicono, o perlomeno occorrono, non è certo l'hacker di turno che lo può fare, sono insomma la stessa, per intenderci, delle transazioni bancarie, quindi ti ho detto tutto. Poi in radio è addirittura un pochettino più seccante decifrarla, perché di norma le comunicazioni non ti danno il tempo di fare un'analisi così accurata come può essere quella di una transazione bancaria. Quindi è un po' tutto un po' complesso. Quella analogica va subito in versione di banda, però quelle, ripeto, degli apparati seri non è così banalmente facile anche quella da decifrare. Così un apparecchio, ovviamente un ricevitore di una certa classe, tipo Rosenfass eccetera, ci mettono un paio anzi neanche un secondo per metterla in chiodo, non solo te la mettono in chiodo, ma già ti stanno dicendo che tipo di modulazione è, quindi lì il problema è che si pone. Su quella digitale invece, proprio AES, quello è tutto un altro discorso, costa cara e metterla. Volesse non sarebbe alla portata di tutti. Sì, quella storia del decifrare i messaggi proprio veramente criptati, cifrati con roba tosta, cioè anche se c'è un supercomputer che te la decifra in, che ne so, mesi, anni, ormai non serve più a niente quell'informazione, roba via radio, tipo. Capito? Comunque è tutto troppo. Com'è che stavano dicendo? Su Roger K stavano criticando un apparecchio, chi lo apprezzava, chi lo criticava, un apparecchio era mezzo computer, e come molti da adesso, mezzo apparecchio amatoriale, no? E non ha nemmeno schermo, credo sia l'ultimo uscito, non ha neanche schermo, praticamente come frontalino usi lo smartphone o un tablet. Come dicono loro, qualcuno ha detto convergenza di tecnologie, una cosa che a me non è mai piaciuta, devo tenere da una parte l'erario, dall'altra il computer, però poi vabbè, tutto si evolve. Poi se piace, come dice cosa, se ti piace così, se non ti piace è così lo stesso. A me piaceva tenere una cosa, ecco perché non amo queste cose SDR, cioè di essere legato al computer per ricevere via radio. Ecco perché avrei preferito sempre un ricevitore tipo quello che stavi dando tu, o anche quel banale, quella radiolina, perché però ha l'SSB, come si chiama, il Texun 660, me lo portavo in macchina con l'antenna taratta e risonante, e la ricezione era un bijou, veramente un bijou. E adesso se voglio ascoltare qualcosa devo ripiegare su quella, su questi online, però non è un'antenna tua, capito? Stai ricevendo da un'antenna remota, invece prima mi appassionava un po' di più, prima, adesso non mi appassiona nemmeno più quella. Sì, tu ti riferivi forse al Dagent, perché, ripeto, in questa settimana io ho dismesso tanti apparati, quindi ad esempio quel ricevitore, quello, non so se sia quello che lo devi, di CR71, che è degli anni 80, è comunque di dinamica da 130 dB, non so, una cosa del genere, l'ho versato fuori, figurati, io lo volevo dare a un prezzo ridicolo, però mi hanno fatto una valutazione tale in cui ho fatto il pacco, ho spedito di corsa e poi sì, le gente sono ancora qua e quello si può tenere, perché ti posso assicurare che fuori di casa il suo lavoro lo fa, almeno per l'ascolto è piuttosto buono. Invece le modifiche di stazione, compreso questo che sto usando, che sono targate 2020, includono anche un ricevitore che dovrà arrivare a breve, e sono tutti touchscreen, anche se a te non piace, sono tutti touchscreen con analizzatore di spettro minimo 1 MHz, quindi in poche parole ti sta istantaneamente chiunque parli su tutta la banda. Ci hanno varie funzioni, filtri, la fantascienza. Io ad esempio non ho mai QRM, tu dirai probabilmente è sordo, no, il fatto è che questo va sotto il QRM, ci hanno le uscite digitali, quindi se ci colleghi il computer praticamente vedi l'impossibile. Tra le altre cose che vedi, cosa che pensavo non ci fosse più, sono dei segnali molto sospetti in 26, in qualcuno anche in 29, ma tanti anche in 26, oltre ai soliti radiocomandi eccetera, sono comparsi anche dei segnali, definiamoli strani, dai, sospetti, sono segnali radio, sono segnali tipici usati per scopi molto molto molto professionali, e noi pensavamo che fosse tutta CB, te ne immagini? Scusa che ho cambiato mic, perché l'altro pure che mi rimanga in mano il coso e il cordone se ne va a spasso. Senti che bel rumore, tutta plasticaccia questa roba ZG, per carità di Dio. Ma cose tipo roba number station oppure servizi governativi, vabbè, non si può dire, magari non si sa nemmeno esattamente cos'è quella roba lì. No, io avrei voluto sentire invece questa famosa banda nautica sui 25 o 26 MHz all'inizio. Ho visto delle tabelle online, però non ho mai avuto la fortuna di beccare, per curiosità, comunicazioni, sempre che da noi ne facciano, tipo Proto Horres, anche se sono lontani, non, a meno che non ci sia una propagazione buona, non ne senti nemmeno. Ma ok. Sì, guarda, io quando ero molto più giovane, e c'avevo l'apparecchio che scendeva fin di giù, ho sentito due che parlavano, ed erano in barca, parlavano in italiano, e quindi mi sono intromesso, erano ovviamente, c'era una propagazione, e li ho chiamati, eccetera, un giorno qui in Italia, ma scusate, da dove siete, eccetera, eccetera, allora mi hanno detto, ma noi siamo pescherici, noi non siamo indiano, scusate, stavo solo provando l'aria, no, già stai arrivando, basta, ma stai arrivando. Infatti poi con la metà dell'esperienza ho capito che erano bande nautiche, e quindi addirittura c'è anche una broadcasting su quella frequenza ed è in digitale, in D, in DMR, non, no, in DRM, Digital Radio Mondiale, ed è, credo, se non mi ricordo, trasmette da Roma, ma con una potenza talmente bassa che noi non la possiamo sentire, e poi in digitale, perché c'è anche il digitale.